si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Si può fare contro il bla bla bla della politica e mettiamoci pure dentro anche l'economia. Diciamo, noi cerchiamo e raccontiamo le storie degli italiani che ce la fanno ogni settimana, questa settimana in diretta dalla BIT, la Fiera del Turismo, la Borsa Internazionale del Turismo, qui a Milano, alla Fiera di Milano. Per chi entra dall'ingresso della metropolitana ci può trovare subito nel primo padiglione a sinistra. E allora, eccoci qua, cominciamo subito con qualche notizia della settimana. E siccome è stata la settimana di Sanremo, ci sembrava giusto cominciare anche noi con un cantante, a dire la verità un po' particolare. La notizia è questa: indagato un cantante neomelodico per i suoi inni ai clan. E lui si chiama Aniello Imperato, in arte Nello Liberati. Il brano incriminato O Capo Clan è un elogio, secondo i magistrati, alla figura dei capo clan, che non sbagliano e se hanno commesso degli errori è stato solo per necessità. Così scriveva costui ed è indagato per istigazione a delinquere insieme ad altre 41 persone. Insomma, della serie non sempre sono solo canzonette, quando anche la musica è in qualche modo da una mano alla criminalità, alla camorra, e meno male che i giudici se ne sono accorti. Un'altra notizia: di fronte alla crisi che insomma fa strage di aziende in questo periodo, ecco una buona notizia, ce la riporta il Corriere di Como. Accordo alla tedesca, ci saranno 40 posti di lavoro in più, dove a Sisme di Olgiate, l'azienda che produce motori per elettrodomestici, ebbene, i lavoratori si sono tolti 700.000 euro di stipendio per investire in nuovi macchinari e scongiurare così una delocalizzazione che avrebbe portato la fabbrica in Slovacchia. Ecco, quindi la fabbrica rimane a Sisme di Olgiate e ci saranno anche 40 posti di lavoro in più. Un'altra buona notizia. Adesso andiamo a Napoli. Il Consiglio Comunale ha approvato lunedì scorso l'istituzione del registro delle unioni civili, che consentirà alle coppie conviventi da più di un anno, anche dello stesso sesso, ed è questo il punto importante, naturalmente, di avere gli stessi diritti civili e la possibilità di partecipare, per esempio, ai bandi pubblici. Qualcuno storce già il naso, per esempio il PDL locale a Napoli. Noi però diciamo, se ci sono più diritti per tutti senza toglierne a nessun altro, allora questa sicuramente è una buona notizia. Aspettiamo le vostre segnalazioni, le vostre notizie anche sulla pagina Facebook Si può fare - Radio 24, alla mail Si può fare @radio24.it, e poi in settimana alla nostra segreteria telefonica. Aspettiamo le vostre segnalazioni, la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto, i commenti sui temi delle puntate 800 28 12 12, 800 28 12 12. La settimana scorsa per esempio abbiamo parlato anche di fisco. Dai movimenti bancari e dalla circolazione del denaro lo Stato sa benissimo chi ha preso dei soldi, chi non ha preso dei soldi. Io direi di togliere di mezzo la carta moneta e usare solo denaro elettronico e spariscono i problemi, sparisce l'immigrazione clandestina, sparisce il pizzo, spariscono le rapine. Chi va a rubare una fila di vite a qualcun altro? Nessuno. Ecco, la mia soluzione è questa: denaro elettronico. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Un modo così leggero per iniziare oggi in diretta dalla BIT, la Fiera del Turismo qua a Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, anzi, per dirla giusta. Andiamo però noi oggi alla scoperta di un mondo legato al turismo particolare, che è il cosiddetto turismo responsabile. Insomma, si può essere turisti responsabili in vari modi, prima di tutto cercando di capire dove si va, le usanze che si trovano, di rispettarle. Si può essere turisti responsabili cercando di non lasciare troppe tracce del proprio passaggio, rifiuti tutti nei luoghi che si visitano, ma c'è anche un'offerta di luoghi e proprio di vere e proprie forme di ospitalità, ma direi anche forme di vita, che mirano proprio a fare del turismo un'attività e un modo di vita appunto responsabili, cioè non dannosi per il prossimo e per l'ambiente. Qua alla BIT se ne è parlato venerdì con il premio Talento Italiano, proprio a proposito del turismo responsabile. Ne parliamo con Stefano Landi dell'Associazione Talenti Italiani. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti quanti. Eccoci qua, prima di tutto poi ci dirà anche chi ha vinto, ci sono tre donne, il turismo, nel turismo il titolo che avete dato, Il futuro è donna. In che cosa consiste questo premio? Perché premiare il turismo responsabile? Di che cosa parliamo prima di tutto? Innanzitutto parliamo di un turismo che sta prendendo molto piede e noi nella nostra speranza diventerà il turismo, ed è un turismo che quindi si occupa soprattutto di lasciare le cose come stanno e quindi non essere distruttivo, rispettare l'ambiente, rispettare le culture e le popolazioni locali. E si può fare turismo responsabile facendo le cose normali che fanno i turisti, soltanto con un'attenzione particolare. Non c'è niente di diverso, bisogna porsi i problemi e essere consapevoli del fatto che si possono lasciare tracce anche indelebili e anche pericolose e dannose. Ecco, io vedo tra i premiati tre donne per tre progetti, ce li vuole raccontare brevemente, insomma, certo. Senza, ecco, sì. Ma intanto è una casualità, ma che ci fa molto piacere. Abbiamo preceduto di un giorno il Festival di Sanremo, tre donne sul podio, siamo e anche qua tre donne sul podio. Esatto. Turisti per donne... Caos, Turisti per Caos ha vinto un progetto, sì, sono di Giulia Boniardi. Sono tre donne eccezionali. Sì. Prego. Il primo è quello che ha vinto è Turisti per Caos. Sì. Di cosa parliamo? Parliamo di un borgo toscano e delle sue frazioni, Montecatini in Val di Cecina, che viene attrezzato per accogliere gruppi di disabili con grande attenzione alle singole problematiche, quindi sono un turismo in realtà fatto su misura per le persone, e gli abitanti del borgo in anticipo conoscono i problemi delle persone che andranno a ospitare, sì, e si attrezzano per questo. Secondo premio in Sardegna. In Sardegna parliamo di energia e del paesaggio dell'energia, dal carbone all'eolico, con tutte le contraddizioni e i problemi, comunque raccontare come il territorio vive questo passaggio e come i territori rimangono comunque splendidi. Elena Zuliani ha inventato quest'idea. E il terzo premio invece ci porta in un'altra regione meravigliosa che è la Puglia, e per un viaggio un po' estremo, insomma estremo, in barca, no? Sì, ma piacevole, come il turismo responsabile non è più difficile degli altri, semplicemente questo è un viaggio alla conoscenza della Puglia senza distruggere niente, andando in barca a vela, dormendo nelle masserie e quindi conoscendo dei pezzi che altrimenti se no non si potrebbero fruire perché sono parchi nazionali, e come il parco delle dune costiere, il parco di Torre Guaceto e così via, e quindi ci si va rispettosi in punta di piedi senza distruggere nulla. Valentina Braccia è la protagonista di questa idea. Benissimo, insomma tutto questo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, di questo anche parliamo oggi. Io ringrazio Stefano Landi dell'Associazione Talenti Italiani che ha patrocinato questo premio Tre Storie di Turismo Responsabile. Oggi vi chiediamo, voi siete pronti all'800 24 00 24, cari ascoltatori, per questo tipo di turismo? Raccontateci allora le vostre esperienze, se ne avete fatte, di turismo estremo, per esempio in bici, a piedi, all'aria aperta, in barca, oppure i vostri viaggi fuori dai canoni tradizionali, quando siete stati in luoghi particolari, viaggi di solidarietà, pellegrinaggi, scoperte, tutto quello che volete. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Rientriamo qua dalla BIT, non so perché, ma in regia non ci siamo capiti. Sentiamo un po' di musica, dai, per favore, vai. In diretta dalla BIT, insomma, Irene Grandi, vivo in vacanza. C'è un mondo del turismo responsabile che è ancora più estremo. 800 24 00 24, vogliamo anche le vostre storie quest'oggi in diretta. Il turismo delle buone intenzioni o delle necessità? Perché se avete voglia di imparare, per esempio, a vivere in campagna o a lavorare la terra e per esempio anche non avete soldi da spendere per i vostri viaggi, ecco che dalla Gran Bretagna, ormai da alcuni anni anche in Italia, arriva il WOF, il Worldwide Opportunities on Organic Farms, tradotto opportunità in fattorie biologiche nel mondo. Io ti ospito, ti do vitto e alloggio e in cambio tu lavori per me nella mia fattoria. Più che turismo, insomma, è un bel impegno, perché non è che resti poi molto tempo libero per andare a fare delle vere e proprie vacanze. Ma se il viaggio è come è una ricerca, anche i woofer, questi personaggi curiosi, adesso cercheremo di capirne qualcosa di più, cercano di raggiungere un loro obiettivo, insomma, imparare uno stile di vita diverso, più agreste, tra mucche e galline, un'esperienza che molti di noi che vivono nelle città ormai amerebbero fare, almeno credo, insomma. Emanuela Zamberlan dell'azienda agricola Fattoria di Vaira a Campobasso, in provincia di Campobasso e Molise, buongiorno. Non abbiamo Emanuela Zamberlan? Non la sentiamo. È caduta la linea, allora la richiamiamo, perché quello di cui vogliamo parlare è proprio questo e volevamo sapere da lei, che gestisce una di queste aziende, di queste fattorie biologiche che ospitano persone, danno vitto e alloggio gratuitamente, in cambio queste persone lavorano per loro. Insomma, è una forma di turismo un po' particolare sicuramente, però per chi vuole vivere un'esperienza di questo tipo e magari non ha neanche i soldi per andare a fare le vacanze in un altro modo, più tradizionale, più canonico, ecco che questa è un'opportunità. E allora, WOOF, questo dal 2000 e credo 7-8 in Italia, sono 3 o 4 anni che si sta diffondendo. Qualcuno sa forse di cosa parliamo? Emanuela Zamberlan, buongiorno, adesso la sentiamo? Sì, buongiorno, ben trovati. Eccola qua, bella squillante, dicevamo, dell'azienda agricola Fattoria di Vaira, siamo in provincia di Campobasso, un posto meraviglioso, almeno dalle foto che io ho visto, in Molise. Funziona questo sistema dei woofer che viaggiano in questa maniera? Funziona molto bene, noi abbiamo sempre tantissime richieste, a dire il vero più di quelle che riusciamo a soddisfare, perché anche se siamo un'azienda grande in cui molto lavoro è necessario, non possiamo accogliere più di 2-3 persone alla volta, ma abbiamo richieste tutto l'anno. Per periodi poi che possono variare, noi privilegiamo sempre persone che vogliono restare un po' più a lungo, perché proprio nell'ottica di conoscere e vivere davvero il lavoro della campagna ci siamo resi conto che bisogna avere un po' di tempo per poterlo vivere e conoscere davvero. E allora, chi sono questi woofer? Che personaggi sono? Che esperienza è incontrare persone che sono disposte, anziché andare a fare le vacanze tradizionali, a lavorare? Ecco, perché poi di questo si parla, no? È un'esperienza bellissima, io credo, per noi che comunque viviamo e lavoriamo qui sempre, e anche per chi viene, almeno per quello che ci siamo resi conto noi. Chi chiede di venire è difficile dirlo, perché ci sono certo molti studenti che vogliono magari a seguito dei loro studi venire a sperimentare sul campo ciò che hanno conosciuto sui libri. Ci sono persone che pensano, immaginano di crearsi una vita in campagna e vogliono avere un primo approccio per imparare, per rendersi un po' conto di cosa significa veramente. E una cosa che secondo me è bellissima, ci sono ora molte persone che per qualche ragione, o finiti gli studi, o perso il lavoro, non ancora trovato il lavoro che desiderano, pensano di impiegare il loro tempo in una maniera diversa, che sia utile al mondo e sia utile anche a loro stessi, e ecco, chiedono di venire qui. Ecco, ma nel tempo libero, no, che ne avranno pure questi, certo, questi woofer, poi vanno a fare anche un po' di visite in città, un po' di turismo, oppure si esaurisce? Sì. Noi diciamo siamo fortunati perché siamo in una zona bellissima di per sé, siamo vicini al mare, siamo in una regione che pochi conoscono e che invece è bellissima da scoprire, per cui è chiaro che ogni volta che hanno tempo libero o prendono la bicicletta e vanno al mare, oppure con i mezzi pubblici cominciano un po' a esplorare la regione. Ecco, lei che insomma, ci ha trasferito anche con questo entusiasmo, si sente anche dalla voce questa esperienza che voi fate alla fattoria di Vaira in Molise, un'azienda grossa che produce, come sentivamo, in varie cose, latte, formaggi, pomodoro, cereali, insomma sembra un po' la fattoria olio, del Molino Bianco. Vino. Vino, sì, ecco, beh, noi siamo una grande azienda viene e cominciamo anche a essere ben conosciuti. Ecco, viene voglia di venirvi a trovare. Però lei, quando va in vacanza, ci dica la verità, tanto non ci sente nessuno. Vai in un villaggio all inclusive di quelli proprio dove si spara tutte le comunità. Guardi, la verità vera è che io immagino, quando avrò vacanza, la spenderò qua in Molise. Perché io sono arrivata qui da un anno e mi sono innamorata di questa regione pressoché sconosciuta. Io considero vacanza anche solo veramente raggiungere i nostri campi e vedere il panorama meraviglioso che abbiamo intorno. Oggi vorrei farvi sentire che questa giornata quasi di primavera è qui, è già una vacanza questa, è una vacanza per lo spirito, una vacanza per l'umore. E va bene, grazie. Allora ci ha fatto venire i brividi con quest'area di primavera in questa campagna molisana che immaginiamo meravigliosa. Emanuela Zamberlan, grazie dell'azienda agricola di Vaira. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie. Ci servono gli auguri. E buone vacanze anche. Ogni giorno quasi. Arrivederci. Eccoci qua di nuovo in diretta dalla BIT, dalla Fiera di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo. E adesso vi vogliamo parlare di una storia che c'entra e non c'entra. Questa è la storia di Fulvia Rienti, 42 anni, milanese, che al tempo della crisi dei subprime va in America ad acquistare e vendere case. È insomma una forma di turismo per lavoro, se vogliamo. Non sapeva neanche bene l'inglese all'inizio, aveva però una buona idea nella valigia che le è servita per avere successo. Ha pubblicato un libro, Guida pratica agli investimenti immobiliari in America, che è diventato a sua volta un manuale per come muoversi negli States. Sentiamo la intervistata dal nostro Dario Ceccarelli. Acquistare e vendere case in America al tempo della crisi, ma come le è venuto in mente? Legata anche al fatto che ho scelto la Florida per il caldo, ho unito una cosa e l'altra e sono andata nel mercato americano proprio nel momento migliore, perché il mercato è sceso del 70%. Non parlavo effettivamente una parola di inglese, però quando vedo un'opportunità la riconosco, e quello che ho fatto è avere un'idea generale e poi quella di andare appunto a sperimentare sul campo. Tecnicamente, lei che operazione ha fatto? Io ho potuto seguire almeno una sessantina di operazioni, e non operazioni dove normalmente si va a vedere l'immobile di lusso, ma quelle che sono le single family, quindi delle case che sono destinate proprio ai cittadini del luogo, non a turisti, ma proprio a persone che abitano nel posto. Quella che ho pagato meno l'ho pagata $12,000, ok, fino ad arrivare in realtà a comprare sui $65,000. Andava dalle banche praticamente, che avevano ripreso queste case, che erano delle persone che avevano avuto problemi col mutuo, eccetera, eccetera. Esattamente, dice REO, quindi REO. Ok, quindi sono immobili delle banche. Questa è la cosa che mi è piaciuto di più in assoluto, perché quando devi andare a trattare con la gente, quello che succede è che ti dispiace sempre magari tirare un po' il prezzo. Quello che mi è piaciuto è che tirare il prezzo alle banche è una cosa che mi piace, insomma. Certo, immaginiamo. E poi quello che io trovo sono delle case, a questo punto, una volta che le compro dalla banca, completamente pulite, quindi il titolo viene ripulito completamente e sono vuote. Quindi io posso entrare e incominciare ad operare, quindi non è come può capitare qua in Italia che vai all'asta, sì, ma poi dopo l'inquilino dentro, devi fare lo sfratto, sempre cose che sono comunque spiacevoli. Una casa di 90 metri quadrati, una casa media, adesso che prezzi ha? Dipende dipende molto dalla zona, quindi noi veramente potremmo trovare case da 90 metri quadri a $15,000, ok? Da poi ristrutturare con magari una decina di $1,000, però in una zona prettamente popolare. Una casa di questo genere, ad esempio, si potrebbe mettere a reddito con un reddito di $800 al mese, mentre si potrebbero anche trovare in zone, ovviamente dipende, se siamo sul mare, fronte oceano, con tanto di muletto, potremmo essere anche sui $200,000-$300,000. Lei racconta che è più facile fare affari in America, ecco perché? L'aspetto differente è che il mercato americano è proprio propenso al business. Quello che mi è piaciuto di più in assoluto è che in ogni posto dove vado, in ogni luogo che vendono e hanno a che fare con persone che fanno business, loro dicono appreciate your business, quindi apprezzo il tuo business, quello che stai facendo, cosa che in Italia quando tu hai successo tendono sempre a schiacciarti, invece lì proprio ti invitano all'avere successo, perché quando tu hai successo hanno successo anche loro, che ovviamente hanno a che fare con te. A proposito di semplificazioni, mi sembra dai suoi racconti che l'America è molto semplificata rispetto all'Italia. Sì, mi è capitato di fare delle chiusure che si chiamano closing anche in cucina, quindi è molto più snello tutto, anche tutta la parte burocratica, si usano molto le mail, devi sempre avere uno scanner a portata di mano perché i documenti li spedisci in questo modo, non c'è bisogno della tua presenza fisica in ogni azione che tu fai, diciamo che è molto facilitato in maniera proprio burocratica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 12 e 36 minuti, buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, si può fare Radio 24 oggi in diretta dalla BIT. Aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24, ne sentiamo subito un paio di ascoltatori. Le vostre forme di turismo estremo o turismo responsabile, i vostri viaggi impossibili. Cominciamo con Silio che ci chiama da Messina. Buongiorno Silio, buongiorno. Che storia ci racconta il suo viaggio? Il mio viaggio, io ho fatto un viaggio di nozze in bici. Beh, insomma. E la moglie era d'accordo, era contenta? Perché si sa che sì, donna sì, la moglie era contenta. Più... Alcuni mi dicono hai fatto il viaggio di nozze, ma la moglie era con te, è normale, la moglie è venuta con me. Ti sei venuta con lei, questo me lo immagino, perché altrimenti sarebbe stato un disastro. E insomma è andato tutto bene in bicicletta. Sì, quanti sì, chilometri sì. avete fatto? Noi siamo stati in Botswana, in Namibia e Sudafrica. Perché lo avete fatto? Che cosa ha provato? Ma perché per fare qualcosa di diverso, non la solita luna di miele, che ti fai la crociera, te ne vai alle Seychelles, abbiamo fatto qualcosa di diverso, è stata una cosa che ci ricorderemo per sempre. E lo consiglierebbe questo ad altri, ad altre persone? Assolutamente ad altri, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie Silio, andiamo alla Spezia dove c'è Mirko, qual è il suo viaggio, la sua storia che ci vuole raccontare? Mirko, buongiorno. Beh, intanto buongiorno a tutti. Sì, diciamo il mio non è un vero e proprio viaggio estremo, ma bensì è stata un'avventura possibile in un quadro quasi impossibile, anche perché diciamo che gli italiani non è che prediligono molto questo tipo di genere di avventura. Io sono partito da Boca Carabaria, che è un colle che si trova ai confini, intanto in un'area appenninica, ai confini tra Arezzo e Pesaro, e in 28 giorni ho raggiunto a piedi sempre lungo l'Appennino, il Passo dei Due Santi, che è una località in zona Zunzeri, che è ai confini tra la Liguria e la Toscana. Ecco, ma questo lei gli ha voluto dare un significato particolare a questa sua camminata di 28 giorni sull'Appennino, oppure aveva del tempo da perdere? Beh, intanto no, intanto ci sono due significati. Il primo è che si tratta di un'avventura che risana diciamo, il corpo e lo spirito della persona, perché camminare in montagna e diciamo fuori anche dal caos cittadino è una cosa che fa bene, dentro. Ma poi c'è anche un senso diverso, che è quello della pubblicazione di un paio di libri che Lei ha messo a frutto questa esperienza, insomma, anche in termini economici, ed è giusto, insomma, così far fruttare anche le esperienze originali e strane come questa, 28 giorni a piedi sull'Appennino. Grazie, questo era Mirko che ci chiamava dalla Spezia. Naturalmente buone camminate a lui e anche agli ascoltatori. Ride me, you're coming around. due storie di due ascoltatori, due viaggi particolari. C'è chi viaggia solo per il gusto di andare a vedere dei posti, per il gusto di viaggiare. C'è chi invece decide di dare anche un significato simbolico, per esempio, al proprio itinerario, per esempio lanciando messaggi di solidarietà, come nel caso di Matteo Tricarico, viaggiatore ciclista che da ben due anni sta portando avanti la sua impresa Travel for Aid, giro del mondo in bicicletta per diversabili. Buongiorno Matteo. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Un po' di ritardo perché adesso ti trovi, credo, in Cambogia, è così esattamente? Dove? Sì, al momento sono a Phnom Penh, nella capitale cambogiana. Ecco, perfetto. È un viaggio incredibile. Sono, se non ho capito male, due anni fa o poco più sei partito e hai compiuto un primo tragitto Vietnam-Italia e adesso da qualche giorno sei ripartito per la seconda tranche incredibile che ti porterà dalla Cina al Nord America, al Sud America e poi di nuovo in Italia, tutto pedalando. Tutto pedalando, sì, sono in bicicletta, sono da solo, anche se per alcuni tratti di alcune migliaia di chilometri sono accompagnato da altri viaggiatori. E ho cominciato a viaggiare nell'ottobre del 2009, proprio dal Vietnam dove lavoravo, attraversando tutta l'Asia fino ad arrivare al mio paese natale a Manfredonia, due anni dopo, ottobre 2011. Due settimane fa ho volato a Bangkok e quindi ora conto di ritornare a Manfredonia attraverso l'Estremo Oriente e le due Americhe. Beh, insomma, un po' ci vorrà, un po' di tempo ci vorrà pedalando. Quanto? Ci vorranno almeno altri 24 mesi. Altri due anni, accidenti. Altri due anni, sì, quindi in totale sarà un giro del mondo in quattro anni più o meno. Con la finalità umanitaria di portare all'attenzione del pubblico quelle che sono le condizioni dei diversamente abili nei paesi che ho attraversato. In realtà è un progetto sportivo umanitario in collaborazione con 15 organizzazioni non governamentali che hanno dei progetti per bambini soprattutto con disabilità nei paesi in cui vado. Che sono soprattutto paesi in via di sviluppo, perché tutto ho attraversato nel viaggio appena terminato tutto il Bangladesh, l'India, quindi ecco, tra le aree più povere al mondo, e nel prossimo tra un po' meno di un anno sarò nel centro e Sud America. In queste tappe che realizzi Matteo Tricarico, c'è anche un sito tra l'altro www.travelforaid.com. Si muove qualcosa, cioè questo messaggio di solidarietà arriva più in Italia, paese da cui tu parti, oppure è più la testimonianza che riesci a fare nei paesi che visiti, insomma, con questo tuo viaggio? No, allora, il concetto è di utilizzare la mia presenza, quindi questa come una news di un giro del mondo diverso, in bici così, per attirare l'attenzione dei media locali. Ecco, cioè tu arrivi in un posto, fanno il titolo sul giornale e quindi si parla di questa... Cambogia. Sì. Domani ho proprio un incontro qui in un orfanotrofio. Loro chiamano i giornalisti del posto. E quindi vengono pubblicati degli articoli sui giornali locali, ecco, sulla un meccanismo di promozione, insomma, televisione nazionale e così via. E quindi c'è comunque un impatto a livello locale, ma c'è poi molto più a livello internazionale, soprattutto in Italia. Vedo che la gente che mi segue, soprattutto chiaramente in Italia, è nell'Europa continentale. Ecco Matteo, ma nella prima vita, perché ormai sono già due anni e mezzo che fai questi viaggi, di che cosa ti occupavi? Cioè, hai una vita precedente oppure sei nato ciclista itinerante? Sì. No, non sono nato ciclista, anzi non sono un ciclista, ma sono semplicemente un viaggiatore in bici. Ho utilizzato la bicicletta come mezzo di trasporto urbano dal liceo in poi. Io ho studiato a Siena, ho fatto scienze politiche e ho lavorato per la Commissione Europea a Bruxelles fino a 12 anni fa, quando mi sono stancato di quella vita, diciamo, burocratica e ho cominciato a lavorare nel mondo del turismo, prima in Egitto e Sudan e negli ultimi 8 anni per dei tour operatori italiani nel sud-est asiatico, il Vietnam, Cambogia e Laos. E poi ho preso questo periodo sabbatico che, a dire il vero, inizialmente doveva essere di poco più di un anno, ma che poi man mano si è così allargato sia nello spazio, perché ho percorso molti più chilometri di quelli che avevo originariamente previsto, e sia nel tempo, anche perché si sono aggiunte altre associazioni, si sono aggiunti altri partner umanitari, e quindi l'itinerario si è esteso. Ecco Matteo, l'ultima domanda che ti vorrei fare, in viaggio decine e decine di migliaia di chilometri in bicicletta per il mondo, testimoniando la solidarietà ai bambini disabili, Matteo Tricarico, era più faticoso lavorare negli uffici della Commissione Europea o pedalare? No, era molto più frustrante e faticoso arrivare alle 6:30, alle 7 e spegnere il computer in ufficio. Quindi nessun rimpianto per la vita precedente. È meno diciamo appagante quello che sto facendo, che sto facendo adesso è qualcosa che mi affaga, che mi piace veramente. Per va bene, grazie. Non allora è tanto lo sforzo fisico, che comunque c'è, che quello in realtà passa in secondo piano. Inizialmente devo dire che la molla che mi spingeva a pedalare era proprio il fatto di visitare nuovi paesi, nuove città, eccetera eccetera. Man mano che ho cominciato ad andare, dobbiamo salutarti Matteo, dobbiamo salutarti, ma non ci sente perché in Cambogia, ci vuole molto finché arrivi la nostra voce. Grazie Matteo Tricarico, buone pedalate, buon viaggio, che dire, ci risentiremo magari in qualche tappa più avanti. Aspettiamo le vostre segnalazioni durante la settimana sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, e poi alla mail Si può fare radio24.it, e anche sulla segreteria telefonica, vi ricordo 800 28 12 12 la vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Oggi siamo alla BIT, parliamo di turismo, sentite che cosa ci ha detto in settimana un imprenditore. Io sono Sergio Cocco, sono un quarantenne, fondatore di una società, una nuova società, una startup nata a metà dell'anno scorso, che si chiama Wine Amore, e portiamo sul mercato un qualcosa di molto innovativo, una applicazione per i ristoranti che, invece di portare al tavolo la vecchia carta dei vini, portano un iPad con su una lista dei vini digitale, che è interattiva, multilingue, insomma un bel passo in avanti. Siamo un po' folli, perché fare gli imprenditori in questo periodo è un po' da folli, però ci crediamo molto, siamo quattro soci, e ritengo che sia, tra virgolette, una ricetta anche per l'Italia, perché questa applicazione presentata non solo nei ristoranti in Italia, ma soprattutto nei ristoranti all'estero, ritengo che possa dare ancora di più slancio a questo che è uno dei mercati un po' il nostro fiore all'occhiello. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Insomma, oggi va così, abbiamo dei problemi con la regia di Milano, non riusciamo a capirci. Noi siamo anche a Milano, però siamo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, Radio 24, radio ufficiale della BIT. Abbiamo parlato anche in vostra compagnia, cari ascoltatori, all'800 24 0024 di turismo responsabile. Abbiamo sentito, insomma, alcune storie di turismo anche estremo, in bici, a piedi sull'Appennino, in bici per il mondo a testimoniare solidarietà. Abbiamo parlato dei woofer che, insomma, se ne vanno durante le loro vacanze nelle fattorie agricole italiane e del mondo a lavorare, ed è un modo anche questo per fare del turismo, per fare forse non della vacanza, insomma. Adesso invece andiamo a Napoli, non c'entra nulla col turismo, però visto che siamo nei giorni ultimi, credo, non sono aggiornatissimo, del carnevale, andiamo col nostro amico e collega Romolo Napolitano, che si trova, Romolo, buongiorno. Ciao Alessio. Al carnevale di Scampia, è così, sì. Romolo? Esatto, sono a Scampia e si sta svolgendo il 30° carnevale organizzato dal GRIDAS, che è il gruppo di risveglio dal sonno, e che coinvolge in questa manifestazione una ventina di associazioni di volontariato che si occupano del quartiere tutto l'anno. Quest'anno il tema della sfilata è o la borsa o la vita, ma non è un riferimento a furti o scippi, ma è un modo per esorcizzare la crisi mondiale economica, insomma. Senti, Romolo, sì, siccome qualche giorno fa c'era stato il tentativo di mobilitare il quartiere con Occupy Scampia, questa iniziativa lanciata su Twitter da Pina Picerno, poi c'era arrivata la pioggia e qualcuno ha detto vabbè, insomma, ha piovuto, non è che questa iniziativa avesse avuto molto successo in questo quartiere. Anche oggi sta piovendo. Ecco, appunto, no, è questo che io volevo sapere, mi dispiace moltissimo. Allora è una congiura su Scampia, sta piovendo di brutto, ma come va? C'è un po' di gente nonostante l'acqua? Guarda, nonostante l'acqua credo ci siano più o meno 2000 persone, ci sono i bambini del Campi Rom, i bambini delle scuole, molta gente è venuta anche da fuori. Allora, notizia straordinaria, insomma, se ci fosse il sole ce ne sarebbero 4000 di persone, quindi ci stavi... anche di più. Prego, Romolo. Dicevo, tu parlavi di Occupy Scampia, proprio quando ci fu Occupy Scampia, le associazioni che organizzano il carnevale, che lavorano tutto l'anno qui nel quartiere, dissero non occupiamo Scampia, ma occupiamoci di Scampia. E qui io con me Martina Pignataro, che è una delle organizzatrici del carnevale del Gridas, e che questa sfilata, in verità, loro mettono in scena dei vestiti positivi e alcuni negativi, e alla fine i vestiti negativi vengono tutti bruciati come una sorta di catarsi, insomma, contro le nostre paure. Lei anche è vestita, insomma, con un simbolo positivo, adesso te la passo così lei sicuramente si potrà dire qualcosa di più. Salve. Pronto? La sentiamo? Non la sentiamo. Anche io vi sento benissimo, ecco, perfetto. Adesso ci sento. Penso spero che sentiate anche in sottofondo i tamburi delle bande delle malamucche. Per ora sentiamo benissimo la sua voce. E lei è vestita da che cosa esattamente? Io porto una maschera di Rigoberta Menciù, che è il premio Nobel della pace del 92. È diciamo un simbolo che sempre portiamo con noi, rappresentanza di tutti i piccoli della terra che appunto ribadiscono pensieri positivi di pace, di solidarietà internazionale. E invece quali sono i pupazzi negativi che vanno poi esorcizzati e buttati via? Sì, quest'anno, ragionando appunto sulla crisi e sulle scelte finanziarie che poi mettono in ginocchio un intero paese, c'è una macchina dello spread con un pesce cane che è lo spredatore. Lo spredatore, non è male questa, solo Napoli ci potevate pensare, è ovvio. E oltre a questa macchina appunto con grafici che salgono e scendono a seconda dello spread che sale e scende, ma anche di due ruote per far vedere le spartizioni, cioè a chi giovano queste scelte scellerate dei potenti che appunto sono i banchieri, le finanziarie, le varie caste, e invece i tagli, cioè su chi gravano queste stesse scelte scellerate, sono le pensioni, lo stato sociale, i beni comuni che vengono sempre messi diciamo in secondo piano e sotto i piedi. Senta, ma sì. Ci sono anche dei riferimenti alla questione che lì a Napoli, a Scampia, è sempre in prima pagina la questione della criminalità, della camorra. Noi abbiamo aperto... questa è una questione soprattutto mediatica, perché purtroppo i media si accorgono in Scampia solo quando ci sono episodi di camorra. Noi oggi siamo qui per il 30° anno consecutivo a organizzare un carnevale dal basso, completamente autofinanziato, costruito, con la partecipazione veramente di centinaia di persone del territorio. Con associazioni che lavorano qui tutto l'anno, tutto questo non fa notizia se non c'è prima, poco prima, un episodio di cronaca nera che quindi attiva i media. Questo ovviamente non vale per la vostra radio, ma in generale è così, diciamo, i riflettori si accendono solo saltuariamente. Noi invece preferiremmo un'attenzione costante. Noi nel nostro piccolo ci abbiamo provato col nostro programma Si può fare Radio 24. Che dire, buon carnevale, buona giornata. Cosa farete, un falò di questi messaggi negativi che volete buttare via, oppure che adesso cosa? Adesso ci spostiamo al campo Rom, che è qui vicino, è limitrofo, la comunità Rom è una comunità radicata nel quartiere da prima ancora che nascesse Scampia, quindi è a pieno titolo una parte integrante del quartiere, per cui da qualche anno insieme a loro organizziamo questo momento finale in cui c'è un falò allegorico dei simboli negativi E il trionfo positivo, appunto, un girotondo intorno alle ceneri delle cose negative, delle maschere positive, delle proposte, quindi di una vita più solidale. Grazie, più grazie, grazie Gridas, il carnevale di Scampia, grazie anche a Romolo Napolitano che ci ha portato questo ospite e ci ha raccontato questa ultima storia. Oggi si può fare in diretta dalla Beat di Milano, ci fermiamo qua. Un ringraziamento a Franco Piantanida, a Stefania Tagliaferri, anche a Pietro Lacorte in regia alla Beat e anche alla regia di Milano. Buona giornata, ci risentiamo domenica prossima, adesso Giornale Radio.